Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buonasera, Hal. Come vanno le cose? Buonasera, signor Emmer. Tutto va estremamente bene. Hal, tu hai un'enorme responsabilità in questa missione. In molti sensi forse la maggiore responsabilità di ogni altro membro dell'equipaggio. Tu sei il cervello e il sistema nervoso centrale dell'astronave e le tue responsabilità comprendono la sorveglianza degli uomini ibernati. Questo ti causa mai una certa apprensione? Possiamo dire questo, signor Emmer. La serie 9000 è il laboratorio più sicuro che sia mai stato creato. Nessun calcolatore 9000 ha mai commesso un errore o alterato un'informazione. Noi siamo senza possibili eccezioni di sorta a prova di errore e incapaci di sbagliare. Hal, apri la saracinesca esterna. Mi dispiace, Davide. Purtroppo non posso farlo. Avete appena sentito una clip tratta da 2001 Odissea nello spazio, il film di Stanley Kubrick dove per la prima volta si parlava di intelligenza artificiale estremamente avanzata. Ora, nel film viene immaginata un'autocoscienza del software che esprime l'intelligenza artificiale e financo una capacità di ribellarsi. Questo non esisterà mai perché l'autocoscienza è una cosa che può essere solo neuronale, non può arrivare dal software, un software non può essere cosciente di se stesso. Però la capacità di interazione prefigurata da quel film negli anni 80 è possibile, vi dirò di più. Un'interazione tipo quella che c'è ora con, cioè scusate, che c'è nel film con Hal esiste già ora, perché già ora ci sono dei software e dei sistemi di intelligenza artificiale, di intelligenza evoluta, che sono in grado di risponderti così e sono in grado anche di sostenere un dialogo. In molti casi questi sistemi arriveranno a sostituire totalmente i call center. Adesso in Italia abbiamo un dibattito sui call center che vanno in Albania, ma è un dibattito destinato a durare per poco, perché molti di questi call center, quelli a minor valore aggiunto, quelli senza attività di vendita, poi non saranno nemmeno più in Albania perché saranno sostituiti da dei software. Oggi parliamo appunto di robot e di automazione e li colleghiamo a un fenomeno che è molto importante, che è il reshoring, e ne parliamo con Stefano Aversa, che è uno dei più noti consulenti di management e di strategie aziendali a livello internazionale. In questo momento è presidente e amministratore delegato di Alix Partners e anche presidente dell'Europa della società Alix Partners, ma soprattutto è una voce autorevole nel mondo dell'automotive, nel mondo dell'industria, è un personaggio che parla spesso con i numeri uno mondiali e ha una visione molto realistica di quello che accade. Buongiorno, ingegnere Aversa. Buongiorno e grazie per i fiori. Grazie a lei. Senta, questi robot in fabbrica dove stanno andando? I robot si sono sviluppati soprattutto nell'industria meccanica e soprattutto nell'industria automotive con i numeri sempre crescenti, in particolare nei paesi sviluppati, in primis il Giappone, la Germania, ma anche l'Italia. Quello che sta cambiando sta cambiando diverse cose. Il robot stesso sta cambiando tra il robot che faceva attività ripetitive faticose, rimane quindi un robot di saldatura che continuerà, ma c'è già da molti molti anni. La nuova generazione di robot, ci sono anche dei robot molto leggeri e che vengono chiamati cobot anche, cioè quindi collaborative robot, robot che collaborano. Quindi quello che sta cambiando è, non c'è più una dicotomia fra il robot e l'uomo, quindi non è un robot o l'uomo, ma è il robot e l'uomo, in cui letteralmente il robot lavora insieme all'uomo. Non ci sono più le barriere, perché questi nuovi robot sono dotati di sensori molto sensibili che quindi se urtano un ostacolo o o una persona si fermano a distanza prima ancora di toccarlo o appena lo toccano, quindi estremamente sicuri e estremamente versatili. Certamente, ricordo anche che il grande fenomeno e la crescita del numero di robot, questo è il motivo per cui ne parliamo. Siamo passati da 60.000 robot prodotti ogni anno nel 2002 ai 300.000 nel 2016 e poi c'è uno studio della McKinsey che dice che fra 20 anni un impiego su 2 toccherà ai robot. Addirittura il fisico Stephen Hawking ha detto: siamo alla vigilia di un evento che potrebbe essere il più importante nella storia umana, ma anche l'ultimo, se non impariamo ad evitarne i rischi. È stato fatto tutta una serie di studi, anche gli studiosi Frey e Osborne dell'Università di Oxford hanno calcolato non la metà, come dice la McKinsey, ma il 47% dei lavori spazzati via dai robot, anche i lavori da scrivania, perché poi anche il software o i sistemi di intelligenza artificiale in qualche modo sono dei robot, no? Questo il dibattito è ancora francamente molto aperto, non più tardi della fine di gennaio, quando a Davos si sono riuniti i vari manager mondiali con studiosi e il tema era quello. C'era della anche lei a Davos? Sì, esatto, come da molti anni. E quindi il tema di quest'anno è stato molto incentrato sulla quarta rivoluzione industriale, che appunto dovrebbe portare a una serie di rivoluzioni e di sostituzioni tra uomo e macchina. Allora, intanto chiariamo un tema che se guardiamo il passato, le precedenti tre rivoluzioni hanno tolto una serie di lavori ma ne hanno creati molti di più, quindi alla fine di ogni rivoluzione industriale si sono distrutti in qualche caso anche milioni di posti di lavoro, ma se ne sono creati ancora di più. Non è ancora scritto da nessuna parte che questa quarta rivoluzione non faccia esattamente questo, cioè che i lavori saranno diversi, ma ce ne saranno ancora di più perché la produttività aumenterà e anche i bisogni aumenteranno più che proporzionalmente. Poi la produttività genera anche reddito. Esatto, quindi genera reddito. E quindi alimenta i consumi. Forse lavoreremo meno, questa è una buona notizia per tutti noi o per soprattutto chi ci seguirà nelle prossime generazioni. Non ci sarà forse bisogno di lavorare più 8 ore o anche di più come a molti di noi capita, ma ci sarà forse bisogno di lavorare meno e dedicare il nostro tempo a fare altre attività. Ecco, la devo interrompere perché voglio mandare in onda una scheda con i numeri della robotica e dell'automazione, i numeri attuali e i numeri prospettici. Ma di che cosa parliamo quando parliamo di robot? Il tema deve essere inquadrato partendo dai numeri di robotica e automazione. Vediamo i principali. Nel 2016 in tutto il mondo sono stati venduti circa 300.000 robot industriali, per lo più tradizionali. Visto che i robot collaborativi, cioè quelli in grado di lavorare assieme a un operaio umano, sono ancora pochissimi. Un bel salto in avanti rispetto ai 170.000 robot venduti nel 2013 e ai circa 100.000 del 2008. Ma si tratta comunque di cifre contenute. Le previsioni più attendibili stimano che nel 2020 si arriverà a vendere circa 500.000 robot in tutto il mondo. Ad oggi il 70-80% dei robot industriali sono impiegati nella manifattura automobilistica, che da sempre ha svolto un ruolo di pioniere in tutti i settori dell'automazione e della meccanica. Entro il 2020 la quota di robot impiegati nel settore automobilistico dovrebbe arrivare a essere la medesima di quella dell'industria non automobilistica, prevalentemente meccanica ma anche chimica e farmaceutica. Per quanto riguarda il fatturato generato dalla produzione di robot, mettendo insieme quello dei quattro leader di mercato, l'italiana Comau, la svizzero-svedese ABB, la cino-tedesca KUKA e la giapponese FANUC e altri produttori piccoli, si arriva a circa 10 miliardi di euro. Ma quali sono i paesi in cui c'è la maggiore quota di lavori ad elevata automazione? Secondo una ricerca della Banca Mondiale, al top di questa classifica c'è la Germania, con il 12%. Il fatto che la Germania sia il primo paese manifatturiero d'Europa e contemporaneamente quello con la massima occupazione dovrebbe stimolare qualche riflessione non conformista sul nesso fra automazione, ricchezza e occupazione. L'Italia è al quarto posto, con il 9% dei posti di lavoro che prevedono elevata automazione. Negli Stati Uniti questa quota è pari all'8%, in Giappone al 7% e in Corea al 6%. E la penetrazione dei robot industriali nei singoli paesi? In valore assoluto al top si trova la Cina. Con 160.000 dei 300.000 robot industriali venduti quest'anno nel mondo. In futuro la quota di robot comprati dai cinesi aumenterà ulteriormente per due motivi. Il primo è che, essendoci molta manifattura e decine di milioni di operai, il tasso di penetrazione dei robot è ancora molto basso, appena 392 robot ogni 10.000 operai automobilistici e 24 robot ogni 24 lavoratori non automobilistici. Il secondo è che il governo cinese ha compreso che l'automazione farà venir meno la convenienza degli occidentali a delocalizzare la produzione in Cina. Anzi, le fabbriche automatizzate e robotizzate conviene maggiormente averle vicine a ricerca e sviluppo, centri direzionali, consulenti strategici, università. Per la Cina, pertanto, l'unica strada possibile per rimanere competitiva a sua volta consiste negli investimenti in robotica e automazione. Ed eccoci in linea dopo la scheda sui numeri della robotica e dell'automazione. Il dibattito sull'occupazione, come diceva l'ingegnere Aversa, sostiene anche che verranno creati nuovi posti di lavoro e che non tutto può essere sostituito dai robot. Per capire come andrà ci dobbiamo ritrovare tra 30 o 40 anni, però comunque se anche venisse seguito l'auspicio degli ottimisti, nella fase di cambiamento ci potrebbe essere una tragedia sociale, perché le persone che fanno le mansioni ripetitive che poi vengono delegate ai robot o ai software o all'intelligenza artificiale, non è che le puoi tutte riqualificare, anzi in molti casi non ne puoi riqualificare nessuna, soprattutto in un mercato del lavoro sclerotizzato come quello italiano e soprattutto avendo a che fare con gente che ha 48, 50, 55 anni, che magari non sono proprio intelligentissimi o studiatissimi e quindi non sono in grado di riciclarsi, perché poi l'essere umano è limitato, è inutile fare appello alle infinite potenzialità e agli atti di volontà quando parliamo della folla. E quindi ci troveremo con un problema sociale gigantesco in questa fase di passaggio, che sarà un problema politico. A mio avviso l'unica risposta potrà essere il salario di cittadinanza, che c'è già in paesi avanzati del nord Europa che non sono certo paesi comunisti, anzi addirittura paesi retti da governi di centrodestra hanno istituito il salario di cittadinanza, che per l'Italia sarà ancora più urgente visto che continuiamo a spostare in avanti l'età pensionabile, ormai l'abbiamo portata a 70 e poi chissà cosa succederà in futuro. Comunque qualcosa bisogna fare, ma in Italia questo tema non lo si affronta, anche perché parlare di salari e di sussidi fa sembrare di essere comunisti e quindi questo è un terrore che hanno tutti. Ha avuto il coraggio di affrontarlo Calenda nell'intervista famosa che ha rilasciato al Corriere della Sera il 2 di gennaio. Va bene, riprendiamo a parlare di robot e di automazione dopo questo breve intervallo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Certe imprese sono possibili solo grazie agli dèi dello sport. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Io sono qui per raccontarvele. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30. Naturalmente qui su Radio 24. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea a parlare con Stefano Aversa della Alix Partners, un notissimo consulente a livello internazionale, a parlare di automazione e di robotica. Allora, discutevamo della questione della perdita dei posti di lavoro, annosa questione, però insomma c'è un dato di fatto, l'automazione e la robotica si diffonderanno sempre di più e questa diffusione sarà inarrestabile, giusto ingegnere Aversa? Sì, non c'è alcun dubbio che i sistemi, diciamo così, intelligenti hanno già superato, li supereranno ancora di più gli umani in tutte le attività cognitive ben definite. Quindi tutte le attività in cui c'è anche del problem solving, della risoluzione in qualche caso anche complessa di problemi. dove invece il robot in senso lato, l'intelligenza artificiale, quello che ci è collegato, non ad oggi ne è previsto che arrivi, e dove c'è creatività, dove c'è passione, compassione. Quindi è vero che ci sono alcuni lavori che verranno inevitabilmente eliminati, che comunque richiederanno anche grandi investimenti, è vero anche che altri invece verranno creati. Faccio un esempio: l'invecchiamento della popolazione richiederà un numero di infermieri e di medici anche, e esatto, di produttori di protesi che saranno personalizzate, magari protesi fatte con le stampanti 3D. Assolutamente in 3D e fatte in tempi molto più rapidi, ma anche i carpentieri, anche chi fa le riparazioni, tutto ma quello. Ma certamente, che... però comunque l'inarrestabile diffusione dell'automazione ha una conseguenza che per noi che viviamo nei paesi occidentali potrebbe anche essere positiva, che è il reshoring. Perché esatto, la delocalizzazione per risparmiare sul costo di lavoro con l'automazione crescente non ha più alcun senso, no? Sì, quello che sta succedendo già, e succederà ancora di più nei prossimi anni, che una serie di attività che sono state negli ultimi 20 anni spedite in India in particolare, ma anche in altri paesi più vicini, sfruttando l'arbitraggio del costo del lavoro, oggi vengono in qualche caso eliminate, quindi automatizzate, quindi non è più un tema di inshoring o reshoring, e in qualche caso rimane solo la parte più alto valore aggiunto, che diventa a questo punto più conveniente, più facile, anche più integrato con l'organizzazione, tenere vicino a dove le decisioni vengono prese. Questo fenomeno quindi sta già causando oggi una riduzione dell'offshoring e un recupero di posti di lavoro, che chiaramente sono posti di lavoro qualificati e che richiedono investimenti notevoli in intelligenza di calcolo locale molto elevato, e questo continuerà soprattutto nei settori, diciamo, in cui il valore aggiunto è immateriale. Quindi... Ma anche nei call center di cui si parlava, esatto, il software può sostituire l'operatore per dare informazioni e per rispondere a delle domande, certo, ma laddove prevista la vendita, e ancora oggi ricordo che c'è un'importante attività di vendita coi call center, può essere solo un essere umano a farla. È ancora così, e anche all'interno del call center, diciamo, mentre il primo livello viene automatizzato, quando si va al secondo e al terzo livello c'è e ci sarà sempre un umano, perché c'è una decisione. Detto questo, l'umano a sua volta ha dei sistemi davanti a sé che gli suggeriscono le opzioni. Quando lei protesta presso un operatore telefonico o di pay TV per qualunque disguido, perché vuole rivedere il suo contratto, le aziende già offrono all'interno opzioni che sono calcolate da sistemi automatici, ma c'è sempre la persona che interagisce, e tutti gli studi dimostrano che chi chiama un call center ancora oggi vuole interagire con una persona. Ma certamente. Ecco, però sul reshoring sentite qua un attimo un po' di numeri. C'era una volta l'offshoring, il trasferimento di produzioni manifatturiere in paesi a basso costo del lavoro per trasferire sul prezzo finale dei prodotti i risparmi in questo modo e godere del conseguente vantaggio competitivo. Questa tendenza è destinata a rallentare di molto, perché i vantaggi competitivi generati da automazione robotica tendono a essere maggiori di quelli della delocalizzazione, e non solo perché un robot costa di meno di un operaio cinese, ma soprattutto perché aumentano i benefici in termini di qualità e di sinergie. Inoltre, le fabbriche fortemente automatizzate e quindi bisognose di competenze a valore aggiunto, è sempre meglio che stiano vicine ai centri decisionali dell'impresa, ai quartieri generali, alle università di prestigio, a dove ci sono le competenze per creare e gestire i robot. Certo, la delocalizzazione continuerà, anche perché ci sono ragioni per cui conviene produrre vicino ai mercati di sbocco, ad esempio i grossi e pesanti cavi per l'energia, anche se fatti da robot non si possono spostare, ma comunque siamo entrati in una fase diversa. Ed è significativo che, parallelamente allo sviluppo di automazione e robotica, aumentino i casi di reshoring, cioè di ritorno in patria di produzioni un tempo delocalizzate. Al reshoring contribuiscono politiche fiscali e di semplificazione tese a riattirare in patria le imprese. Non è un caso che tra gli imperativi categorici delle politiche industriali di Obama ci fosse proprio questo. Ma quali sono i numeri del reshoring? Tra coloro che li monitorano c'è il gruppo di ricerca UniClub More Reshoring. Dall'ultima analisi, condotta a metà 2016 su dati 2015, emerge che in termini di decisioni di reshoring l'Italia si collochi al secondo posto nel mondo dietro gli Stati Uniti. 121 aziende contro le 326 americane. Delle 121 aziende che hanno fatto reshoring, 100 sono nel nord Italia, 20 nel centro e solo una nel sud. Tra i marchi noti per aver fatto reshoring, il tonno Asdomar, le batterie Fiam, gli occhiali Safilo e la moda di Falconeri. Seguono il Regno Unito con 68 imprese e la Germania con 63. Complessivamente si arriva a quasi 730 casi in tutto il mondo. Numeri piccoli, ma cresceranno. Senta Aversa, ma la crescita del reshoring non ha anche delle motivazioni politiche perché il mondo sta cambiando? Non c'è dubbio, e questo lo vediamo non soltanto nel vecchio continente, ma anche nel nuovo, in generale in tutti i paesi industriali. Quindi la vittoria di Trump, che qualcuno può catalogare come la vittoria del populismo, in realtà è una oversemplificazione, ha cause molto più profonde. Che si vedono anche oggi in Europa, ci saranno circa 20 elezioni che succederanno nel mondo, che sono pari al 40% del PIL mondiale in quest'anno, quindi è un anno particolarmente importante. E quindi il tema è centrale, e questo fa sì che al di là dei proclami poi qualcosa debba succedere, debba essere fatto succedere. Probabilmente Trump non riuscirà a tenere o a far ritornare tutto il lavoro che ha promesso negli USA, perché non si possono smontare impianti così ex abrupto, ma ha aumentato la sensibilità e contribuirà a una crescita dell'onda del reshoring. Ha posto un tema che è sentito, c'è sicuramente un'ondata di anti-globalismo che ha, insieme a tutta una serie di vantaggi, portato anche a una riduzione della classe media e anche della classe, diciamo, dei blue collar, dei lavoratori, e questo sicuramente ha raggiunto livelli che creano non solo una crescente disuguaglianza sociale, ma anche un possibile disordine sociale. Ecco, però il fatto nuovo, perché queste cose ce le diciamo da mesi, da anni, da decenni, però il fatto nuovo che mi sta dicendo lei è che ciò inizia ad avere delle ripercussioni concrete sulle strategie aziendali. Questa è una grande novità. È assolutamente così. Bene, devo salutarla perché il tempo è tiranno. Grazie per il suo contributo. Arrivederci, ingegnere Aversa. Grazie a voi. Grazie a tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo domani alle 13:10 e non potete mancare.